10. Ascolta e controlla. 1. Ha lasciato il lavoro perché aveva vinto alla lotteria. 2. Siamo tornati a casa perché avevamo dimenticato i documenti. 3. Si preoccupava perché aveva perso le chiavi. 4. Noi abbiamo scartato i regali dopo che tutti erano arrivati. 5. Gli studenti hanno letto i giudizi che la commissione aveva scritto. 6. Ero sicuro che i diplomi erano già arrivati per posta. 7. Ridevano perché avevano ricevuto una buona notizia. 8. Non ha comprato niente perché ieri aveva già speso molto.